L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, in cui parleremo molto di mare e moltissimo di alghe aliene. Lo faremo con Sara Caronni, giovane studiosa di scienze naturali, fresca vincitrice dei 15.000 euro che vanno ogni anno alle 5 vincitrici dei premi attribuiti da L'Oreal Italia e dalla Commissione Italiana per l'UNESCO, esclusivamente a ricercatrici under 35. È la 18ª edizione del premio in Italia, poi c'è anche un concorso internazionale. Le altre vincitrici sono Maria Loredana Marcovecchio e Alice Frigerio per la medicina e chirurgia, Irene Paterniti per le scienze biologiche, Maria Enrica Di Pietro per la chimica. Come dicevamo, ci ha molto incuriosito il lavoro di Sara Caronni, perché è affine, diciamo, ai temi di questa trasmissione ed è dedicato a valutare gli effetti dell'invasione di alghe aliene nel Mediterraneo e in particolare in Sardegna. Sara quindi è nostra ospite oggi e le chiediamo innanzitutto di presentarci il suo percorso di formazione e gli studi che ha compiuto. Sono di Pavia e ho sempre studiato a Pavia, per cui ho fatto l'università a Pavia, mi sono laureata in scienze naturali, però ho sempre avuto una grande passione per il mare, soprattutto per il mare della Sardegna, e quindi anche se sono cresciuta in una città lontana dal mare, ho sempre cercato di inserire nei miei studi tutto quello che riguardava il mare, quindi ho scelto come esami facoltativi tutti quelli possibili riguardanti il mare o comunque l'acqua, e poi ho cercato di fare la tesi in Sardegna, all'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, proprio per cercare di andare avanti con quello che mi piaceva di più, con gli argomenti che mi piacevano di più. Dopo la laurea ho iniziato a collaborare con l'area marina protetta e nel 2008 ho iniziato un dottorato di ricerca in ecologia sperimentale geobotanica, sempre all'Università di Pavia, portando avanti tutte le mie ricerche di campo in Sardegna, sempre nell'area marina. Mi sono sempre occupata di microalghe e macroalghe aliene, quindi tutte quelle specie che sono tipiche di altre regioni geografiche e che arrivano per varie ragioni volontarie da parte dell'uomo oppure involontarie in Mediterraneo, per cui anche nel mio dottorato ho lavorato su questi argomenti. In particolare ho focalizzato l'attenzione su una microalga aliena che si chiama Chrysopheum taylori, che è una specie che originariamente è tipica della barriera corallina ma che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Mediterraneo. Adesso la fermo un attimo che poi continuiamo, sì, su questo, okay, tema. La curiosità credo sia un po' di tutti. Com'è, no, che, certo, uno si appassiona alle microalghe aliene? Cioè, perché ne ha scoperta una negli studi? Perché come è arrivato questo? Allora, l'argomento delle specie aliene mi ha sempre interessato perché mi sembrava una cosa un po' molto particolare, mi affascinava l'idea di queste specie che si spostano da un mare all'altro in qualche modo, e poi mi sono resa conto, ho potuto toccare con mano proprio durante l'estate in Sardegna, quanto queste specie possano creare dei problemi, perché nelle regioni dove arrivano non essendo tipiche, non hanno competitori, non hanno predatori e soprattutto sono specie spesso invasive che quindi si possono arrivare a sviluppare anche notevolmente andando ad alterare quelli che sono gli ecosistemi nativi. E quindi da lì qualche anno fa ricordiamo quell'invasione dell'Adriatico. Esatto, sì, non so se erano aliene o no, erano alghe comunque. Erano alghe, quelle sì, non erano esattamente la specie aliene, però comunque poi c'è anche, appunto, al di là del problema della specie aliena o meno, c'è il problema del cambiamento climatico che è in corso a livello globale e che interessa anche i mari, e quindi il fatto che alcune specie che prima erano molto meno abbondanti, adesso abbiano dei veri e propri bloom, quindi delle fioriture, così si chiamano per le alghe, in cui le densità cellulari raggiungono valori molto elevati. E proprio durante le mie estati in Sardegna ho potuto osservare come la mucillagine, che questa microalga a cui poi mi sono appassionata è in grado di produrre, causasse dei problemi agli ecosistemi nativi, soprattutto a tutte quelle specie che stanno attaccate al substrato, si chiamano specie bentoniche, perché soffocava gli organismi come per esempio le spugne, i poriferi, oppure perché ricopriva completamente le alghe e quindi ne limitava le capacità di fare fotosintesi. E proprio per questo mi ci sono appassionata, perché ho visto con mano cosa poteva provocare, ho visto con una semplice ricerca bibliografica che in letteratura c'era pochissimo su questa specie e ho pensato che poteva essere interessante così cercare di approfondire le conoscenze, anche perché visti i danni che causa sarebbe importante conoscerla un po' meglio. Si può contrastare oppure no? Dobbiamo contrastare. Dunque, contrastare è già difficile per le specie macroscopiche, no? Per cui già parlando di macroalghe aliene non è semplicissimo il contrasto, per le specie microscopiche è ancora più difficile. Più che altro si può cercare di prevedere e di prevenire almeno in parte la formazione di mucillagine semplicemente rimuovendola poi nei siti che sono di maggiore interesse naturalistico, per cui mi immagino in un'area marina protetta, in una zona A, dove effettivamente c'è una biodiversità molto elevata, degli ecosistemi ben conservati, con un grande lavoro, un lavoro molto attento, diciamo, di osservazione e di individuazione dell'inizio della fioritura, si può andare a rimuovere proprio manualmente la mucillagine per evitare che danneggi molto i popolamenti. Quindi vabbè, questo significa controllare bene ed essere sempre presenti, esatto, cosa che purtroppo esatto. Non si riesce sempre a fare. È molto difficile anche perché ci vorrebbero tanti fondi e tanti mezzi. Il conoscere bene l'ecologia della specie può aiutare, perché uno riesce a indirizzare di più i suoi sforzi, per cui per esempio sa che deve controllare nei mesi estivi perché sono i mesi in cui si sviluppa maggiormente, sa che la mucillagine è un vettore per la diffusione delle cellule, quindi partendo dalle prime zone in cui si sviluppa e ragionando sui venti e sulle correnti si può andare a prevedere dove arriverà la fioritura successivamente. Sa qual è il substrato, qual è la profondità a cui la microalga si trova maggiormente e quindi sa dove dovrà andare ad agire e a monitorare. Questi sono tutti aiuti per cercare di limitare il danno, diciamo. Che tipo di, si parlava prima dei danni che porta all'ecosistema, che tipo di danni sono? Sono danni a livello ecologico, appunto, perché va a danneggiare i popolamenti che stanno attaccati al substrato, quindi popolamenti bentonici prima di tutto, e poi sono anche danni di tipo economico comunque, perché la mucillagine dopo una prima fase in cui si sviluppa sul substrato tende a staccarsi e quindi poi si aggrega in superficie e forma delle chiazze che vanno a appesantire le reti da pesca quando entrano in contatto con le reti stesse, per cui creano dei danni ai pescatori, e poi le chiazze vengono comunque trasportate dalle correnti e dal vento anche a volte molto vicino alle spiagge, considerando anche che comunque si tratta di una specie la cui profondità di massima densità è 1,5 metri, quindi superficialissima. Sì. E chiaramente la balneazione non è molto gradevole quando il litorale è completamente invaso da questi ammassi mucillaginosi, maleodoranti, gelatinosi, che fanno un po'. Ci sono tanti danni sia ecologici che economici, purtroppo. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati, stiamo parlando con Sara Caronni, una delle 5 ricercatrici under 35 premiate dalla Commissione Italiana per l'UNESCO e L'Oréal Italia nell'ambito della 12ª edizione di L'Oréal Italia per le donne e la scienza. Sara ha vinto 15.000 euro che utilizzerà per proseguire il suo progetto di studio, che intende valutare gli effetti dell'invasione di alghe aliene nel Mediterraneo e in particolare in Sardegna. Alghe che arrivano da altri mari e che stanno proliferando qui da noi perché la temperatura delle acque si è innalzata come conseguenza dei cambiamenti climatici. Lei l'ha studiata in Sardegna, ma in quali altre parti d'Italia si trova questa microalga? Io sono l'unica che la studia in Italia. Quindi abbiamo il massimo esperto al microfono. Sì, vabbè, diciamo che stiamo cercando di capirci qualcosa più che il massimo esperto. Però diciamo che, allora, lungo le coste della Sardegna c'è sia nell'area marina di Tavolara che più a nord fino al Golfo di Orosei, più a sud fino al Golfo di Orosei, che anche a nord nell'arcipelago della Maddalena. Per il resto sappiamo che abbiamo ritrovato delle cellule durante dei campionamenti nella zona di Civitavecchia e Santa Marinella, per cui lungo il litorale laziale, però sul resto dell'Italia non saprei più di tanto dirle, perché non è semplice andare a cercarle in ciascun posto. Quindi possiamo dire che magari i subacquei che la vedono la possono segnalare direttamente a lei? Sì, il problema è che, appunto, essendo una specie microscopica, loro vedranno solo la mucillagine che essa produce, che però è molto simile a quella di tantissime altre specie, cioè di mucillagine nel mare ce n'è veramente abbastanza d'estate, per cui sì, potrebbe essere un aiuto, però diventa difficile capire quali sono le segnalazioni che riguardano questa specie oppure quella di altre specie, tra cui perché non c'è un indizio chiaro della presenza di quella specie. No, va proprio analizzato il campione al microscopio. microscopio e va trovata la specie, per cui anche noi avevamo pensato inizialmente di rivolgersi ai subacquei di altre zone per avere delle informazioni, però diventa difficile, bisognerebbe chiedere ai subacquei di raccogliere dei campioni di mucillagine, fissarli e poi mandarceli in modo che noi li possiamo analizzare, però è un pochettino più complesso. Sì, forse quindi, più una rete tra le università allora potrebbe, esatto, diventare. Infatti sì, comunque c'è da dire che l'uniche zone in cui ha causato dei problemi così grandi da far sì che l'attenzione fosse spostata su di lei è la Sardegna, quindi sicuramente le sue densità sono maggiori qui in Sardegna di quanto non siano altrove, certo, almeno, esatto, per ora, perché sì, poi appunto per ora. Queste sicuramente a livello scientifico viene considerata tra le spreading species, quindi quelle specie che stanno aumentando la loro abbondanza e la loro distribuzione in relazione ai cambiamenti climatici, perché è tipica dei mari caldi, quindi più la temperatura in Mediterraneo sale, più lei ci sta bene. E che rispetto alle specie che già c'erano, diciamo, cos'è, le distrugge, le soffoca, cosa fa? No, lei non distrugge niente, no. La mucillagine più che altro soffoca non le specie già presenti di microalghe, ma appunto i popolamenti bentonici, quindi i popolamenti, sì, di tutte quelle specie, animali e vegetali che aderiscono al substrato, per esempio penso alle nacchere, che sono una specie tra l'altro protetta in Mediterraneo, le Pinna nobilis è il nome scientifico, sono quelle grandi cozzone che si vedono spesso nei documentari. Queste hanno un apparato filtratore che viene fortemente danneggiato dalla presenza della mucillagine. La stessa cosa per i pesci, soprattutto i piccoli pesci che stanno bentonici, quindi che vivono in prossimità del fondale, possono avere dei problemi legati al fatto che la mucillagine tende a chiudere le branchie. E allo stesso modo le spugne, i poriferi possono avere problemi perché vengono ricoperti proprio dalla mucillagine, così come tutte le macroalghe. Infatti nel mio studio io andrò a verificare qual è la risposta dei popolamenti macroalgali tipici della Sardegna alla presenza di questa mucillagine. Dunque, nel suo studio, che sarà, diciamo così, aiutato anche da questo premio appena attribuito, sì, da L'Oreal, sì, sì, sì, dicevamo, sì, sono 15.000 euro lordi, una pianificazione che va fatta subito, forse già pronta? Sì, sì, il progetto va presentato, una bozza del progetto va presentata già al momento dell'invio della domanda per partecipare al premio, e adesso siamo già nella fase in cui stiamo definendo nello specifico quello che sarà il progetto di ricerca, anche perché questa specie è una specie che si sviluppa soprattutto d'estate, per cui dobbiamo essere operativi per un'eventuale fioritura già a luglio, per cui ci stiamo già muovendo per preparare tutto per l'esperimento di campo, che è un po' una novità in questo tipo di studi sulle microalghe, che spesso vengono invece studiate in laboratorio. Volevo sapere com'è un po' strutturato questo progetto, che appunto è già stato così tracciato nel momento in cui si è iscritta, ma poi parla sempre al plurale perché siete un gruppo? Sì, in realtà io sono la project leader, però è il mio gruppo di ricerca che lo farà in collaborazione quindi con l'area marina protetta di Tavolara, chiaramente, dove poi svolgerò anche tutta la parte del lavoro di campo, poi con l'Università di Sassari, con cui collaboro già da anni e dove si occupano anche dello studio di questa microalga, e anche con l'Università di Milano Bicocca, dove diciamo è in corso una collaborazione per cercare di lavorare sulla microalga più in laboratorio rispetto a quanto sia stato fatto fino ad oggi. Per cui sarà un insieme di ricercatori che mi aiuterà nella realizzazione di questo progetto. Ecco, appunto, quindi il progetto che a breve termine ha per luglio essere pronti, sì, perché bisognerà andare sul, sì, campo. Esatto. Dopodiché cosa fate? Allora, niente, sul campo dobbiamo preparare delle unità sperimentali in cui, quindi, abbiamo scelto di lavorare sul substrato roccioso perché è quello dove la microalga è più abbondante, e abbiamo scelto di lavorare a 1,5 metri perché è la profondità di massima densità della specie. Andremo a valutare la risposta delle macroalghe tipiche appunto delle coste sarde, come dicevo prima, in relazione a due disturbi che sono legati ai cambiamenti climatici, almeno in parte. Questi due disturbi noi andremo a simularli, quindi simuleremo l'aumento di nutrienti, che è uno dei problemi appunto legati ai cambiamenti climatici, e poi simuleremo anche un disturbo di tipo meccanico, per cui andremo a togliere una parte di queste macroalghe dalle unità sperimentali. Dopodiché aspetteremo la fioritura della microalga che studiamo e vedremo come la mucillagine agisce su questi popolamenti, per cui quale sarà la loro risposta alla presenza di questa mucillagine. Abbiamo più volte detto, lei più volte nominato nel corso di queste interviste, i cambiamenti climatici. Sì. Le mucillagini di cui stiamo parlando sono proprio derivano dal fatto che c'è un riscaldamento in atto. Esatto. Che cosa altro si vede che c'è un cambiamento climatico nel Mediterraneo, in particolare nell'area in cui voi studiate? Ma sicuramente l'aspetto che più ci fa capire che questo riscaldamento è realmente in corso è proprio la presenza di specie aliene. Adesso, al di là delle microalghe, ma c'è tutta una serie di specie che sono tipiche dei mari caldi e che adesso si stanno sviluppando in Mediterraneo anche con ritmi abbastanza elevati, e questo è possibile solo perché è in corso comunque un riscaldamento del Mediterraneo. Poi è chiaro che ci sono altri indicatori anche di livello più, diciamo, chimico, la stessa temperatura dell'acqua semplicemente ce lo indica, però il fatto che ci siano molte specie appunto tipiche delle zone calde che si stanno bene in Mediterraneo è la dimostrazione che c'è un cambiamento in corso. Ad esempio, a parte appunto abbiamo parlato delle microalghe, poi ci sono delle macroalghe, per esempio c'è Caulerpa taxifoglia, Caulerpa racemosa, ci sono pesci, ci sono crostacei, molluschi, cioè specie aliene veramente appartenenti a tutti i generi e i filum. Quando quest'estate andremo sott'acqua possiamo andare a cercare qualcosa di nuovo, anche noi che non siamo degli esperti, insomma, che non sappiamo. Sì, sicuramente ci sono anche dei questionari online che possono essere cercati proprio facilmente anche inserendo qualche parola chiave in Google, e che danno delle indicazioni su queste specie. Anzi, viene spesso chiesto a tutti quelli che vanno al mare, subacquei, ma anche a chi fa semplicemente snorkeling, di aiutare la comunità scientifica segnalando nel caso in cui le specie elencate in queste slide, in queste immagini, nei questionari siano avvistate poi realmente durante le attività. Quindi se uno vede un pesce tipico che ha visto ai Caraibi, insomma, esatto, qualche anno prima, è buona cosa avvisare anche semplicemente la capitaneria di porto, per esempio, che poi avviserà le autorità competenti. Perché parliamo sempre delle meduse, però sì, esatto. Al di là di quelle, ecco, c'è anche di più. C'è molto altro. Tra l'altro spesso si tende a dare così molta importanza alle specie macroscopiche, appunto come anche alle meduse, mentre spesso tutte le specie vegetali oppure le specie di dimensioni più piccole non vengono considerate. In realtà, quando raggiungono densità considerevoli, possono rappresentare anch'esse un problema, magari non proprio macroscopico, ma lo stesso importante per la conservazione degli ecosistemi. Certo, è come l'invasione dello scoiattolo americano. Insomma, ecco, esatto. La stessa cosa succede in mare con un sacco di specie, davvero. E forse succede in maniera anche meno evidente, proprio perché non siamo sott'acqua tutto il giorno, non siamo esperti. Sì, questa sicuramente, infatti spesso vengono sottovalutate dai non addetti ai lavori le invasioni in ambiente marino o comunque in ambiente acquatico. E poi, come dicevo prima, anche il problema delle dimensioni. Finché si tratta di un pesce di grosse dimensioni, è facile, no? Capire che c'è stata un'invasione, andare ad identificare anche le regioni di provenienza, eccetera, eccetera. Quando si tratta di specie molto piccole è tutto più difficile, e in mare di specie molto piccole ce ne sono comunque tante. Certo. Grazie mille a Sara Caronni. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Ci risentiamo magari al termine di questa sessione estiva. Certo, con piacere, così vi racconto com'è andata. Com'è andata e cosa c'è stato quest'anno di nuovo in Sardegna. Sì, ok. Grazie a Sara Caronni per essere stata con noi, congratulazioni ancora per aver vinto questo premio che viene attribuito ogni anno da L'Oreal Italia a ricercatrici under 35. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, buon ascolto.